4 luglio 391. È allora terza che mi sono rintanato nei cunicoli sotto la biblioteca, preparando le anfore da trasportare al faro. Per quanto cerchi di concentrarmi sul lavoro che sto facendo, per quanto sia incuriosito e intimorito dal contenuto dei rotoli che vado nascondendo nel fondo di queste tombe particolari, non riesco a pensare ad altro che al tramonto di ieri, alla costellazione della musica, alla sua voce che sembrava provenisse da un altro mondo, alla sua figura alonata dall'ultima luce del tramonto sui gradini del tempio di Posidone. Ed ecco materializzarsi la creatura dei miei sogni, il bellissimo volto cosparso d'ombre, l'ansia negli occhi. Lascia tutto, Shalim, vieni via con me, subito. È arrivato il prefetto imperiale assieme al vescovo, scappiamo dalla postiera. E mi fa segno di spegnere le lucerne attorno a me. Mi sbrigo, la seguo senza fiatare lungo un cunicolo strettissimo, privo di nicchie e di rotoli, che scende nelle viscere della terra e poi prende a risalire. La lucerna che i pazzi astringe in mano è sul punto di spegnersi parecchie volte. La giovane mi fa passare avanti a lei e quando siamo giunti alla sommità vuole che impari ad aprire. Emergo in una piccola costruzione attaccata a un impianto di ispezione della rete fognaria della città, a pochi passi dalla colonna di Pompeo. Attorno non c'è nessuno. Do una mano ai pazzi affinché esca dal cunicolo, l'aiuto a chiudere la botola, sgusciamo allo scoperto e ci avviamo verso il lontano tempio di Serapis. Shalim, se per caso ci hanno visto da queste parti e dovessero chiederci qualcosa, parla tu di che stavi facendo un sopralluogo per il progetto dei canali d'acqua. Ma che sono venuti a fare? Mi pare di scorgere anche dei soldati. Ho paura che si tratti degli editi dell'imperatore. E accelera il passo. Quando giungiamo all'ingresso del Serapeo, oltre a una carrozza con 4 cavalli, ci sono una trentina di guardie imperiali. Metà sono sistemate sulla scalinata da cui si accede al tempio. Ipazia mi precede, avviandosi verso il lato destro del portico, nella direzione del centro studi. Quando entriamo, sulla destra della cattedra c'è Teone, accanto a lui, in piedi, i 3 filosofi sacerdoti del tempio, Olimpio, Elladio e Ammonio. Seduto alla cattedra, il prefetto Evagrio con la toga, chioma abbondante, barba ricciuta. Alla sua sinistra, faccia arcigna, con l'abito talare delle grandi cerimonie, il vescovo Teofilo che aggrotta le sopracciglia. «Ma tu non sei il figlio di Isidoro?» La voce è impregnata di sorpresa. «Sì, vescovo, sono venuto lo scorso mese a consegnarvi fogli di papiro. E che ci fai in questo posto?» E mi lancia uno sguardo diffidente. Sto studiando la possibilità di portare ad Alessandria più acqua potabile, senza dover essere di peso al prefetto. E sono anche venuto a consultare l'opera di Teone sull'inondazione del Nilo e a parlare con lui. Sono riuscito a tenere a freno la mia ansia. E tu, da solo, vorresti riuscire là dove non hanno potuto i nostri amici romani? Questo popolo che è in fatto di acquedotti la sa lunga e sorride con un ghigno che rivela le labbra gonfie e carnose. Oh, no, no, non è mia intenzione sminuire l'abilità dei romani, patriarca. Vorrei soltanto trovare un sistema economico da proporre al prefetto. Ci sono dei canali sotterranei naturali che potremmo utilizzare per portare altra acqua dal Nilo. Esaminerò il progetto alla conclusione delle tue ricerche. La voce del prefetto è incolore, come lo sguardo. Ipazia, nel frattempo, ha raggiunto il padre, rimanendo in piedi e passandogli un braccio attorno alla spalla con un gesto di protezione. Teofilo abbandona i miei occhi per volgersi verso i filosofi sacerdoti e poi verso Teone. Ma chi vi dà il diritto e il potere di sancire il limite fra ciò che è da ritenersi scienza e ciò che invece non lo è? E chi vi dà il diritto di affermare che ciò che non è scientifico non è razionale? Siete stati voi a portarci all'inevitabile conflitto tra scienza e religione, tra il retto canone di verità offerto dalla scienza, come lo chiamate voi, e il canone di fede proposto da noi vescovi. Teone scuote con dolcezza il capo. Ma non è affatto così. Noi studiosi non vogliamo assolutamente interferire nelle scelte religiose degli uomini. Noi ci limitiamo a studiare l'origine del mondo, i fenomeni e le leggi della natura. Oh no, no, voi scienziati studiate anche il senso del mondo, il ruolo e lo scopo dell'uomo, i problemi relativi al libero arbitrio, compresi il problema dell'immortalità dell'anima e l'esistenza di Dio. Il suo sguardo è sprezzante. Tua figlia studia principalmente l'atomismo con il proposito di riuscire a spiegare la realtà tramite questo meccanismo. Lei vuole dimostrare che anche l'anima, che anche Dio è formato di atomi. Ipazia avvampa di rabbia. Perdonami, vescovo, ma credo che occorra fare chiarezza. Hai ragione quando dici che anche noi studiosi ci spingiamo a porci domande e a tentare risposte riguardanti problemi religiosi, tra virgolette. E come negarlo? Ma noi non tentiamo di imporre le nostre idee a nessuno, così come non lo fanno Olimpio, Eladio e Ammonio. Anzi, è proprio questa biblioteca, simbolo della ragione, e questo centro studi, sistemati nel più grande tempio di Alessandria, a dimostrare che scienza e religione possono camminare assieme. E non a caso i nostri tre amici, così come i loro predecessori, si sono autodefiniti filosofi sacerdoti. E quando hanno pregato e sacrificato nel tempio di sopra, scendono qui, leggono, studiano opere religiose e scientifiche, e talvolta si uniscono ai nostri studenti, sedendo proprio come ora ad ascoltare o a dare un contributo in piena libertà. La voce della mia maestra è avvincente. L'astronomia, ad esempio, è una scienza meravigliosa, di alta dignità, e può servire anche da ascesa a qualcosa di più alto, da tramite naturale verso la teologia. A Canopo, sulle colonne del Tempio di Serapis, sono scolpite le costellazioni che ci sono in cielo. Sopra, nel tempio, accanto alla statua di Giove Serapide, c'è una colonna votiva con un esemplare bronzo del Mesolabio di Eratostene. E sul granito è inciso un epigramma, insieme a una rappresentazione figurativa con cui il matematico di Cirene spiega il funzionamento di questo strumento che ha ideato e costruito lui stesso. Lo capisci, vescovo? È proprio ciò che avviene in questi luoghi che non ti dà ragione. Non esiste uno scontro tra scienza e religione, esiste un'avversità. Non voglio dire da parte del cristianesimo, ma da parte di alcuni suoi rappresentanti nei riguardi della scienza. Mentre Ipazia gli parla, Teofilo con una delle enormi mani pelose va torturandosi il mento aguzzo. Vescovo, un'ultima cosa deve farti riflettere. La scienza unisce gli uomini, può aiutare a unire i popoli, può contribuire alla diffusione del messaggio d'amore di Cristo. In questo centro studi coesistono pagani, ebrei, cristiani, uomini e donne di qualunque condizione sociale 7 secoli fa ad Atene, nel giardino di Epicuro, alla sua scuola, a una scuola dove si studiava proprio l'atomismo. Vennero ammesse donne e schiavi più o meno di pari condizione, come la celebre Etera Leonzio, che scrisse parecchi trattati scientifici. E sorride amaramente verso il prefetto, che invece resta impassibile, distrutti da Giulio Cesare nell'incendio della biblioteca madre nel Museion. Colei che tu definisci erudita scienziata, replica secco Teofilo, in realtà era una raffinatissima prostituta, le cui arti amatorie sconvolsero la mente di Epicuro. La mia è la versione storica, la tua è una versione, teatrale. Prima o poi dovremo arrivarci. Veniamo alla sottoscritta, allora. Che opinione hai di me e del mio ruolo in questo centro? Alla tua età e con la tua indubbia avvenenza dovresti già essere sposa e madre come atto di gratitudine verso nostro Signore, il Dio che ti ha fatta nascere in una buona famiglia, la quale ti ha concesso tutto. Purtroppo ti è venuta a mancare la guida di una madre e ti sei approfittata dell'eccessiva bontà di tuo padre. Sei stata privata, inoltre, di un santo insegnamento cristiano. Sei cresciuta in mezzo a questi eruditunculi, sacerdoti che non sono né carne né pesce. Stai occultando il tuo ruolo voluto da Dio, quello di procreare ed educare altre creature, per saziare il tuo orgoglio smisurato, quello di voler essere paragonata a tuo padre nello studio dei numeri, per tentare di leggere nel cielo, nei misteri di Dio. Sei donna e non vuoi accettare il tuo ruolo, un ruolo scritto non da un suo umile servitore, come il sottoscritto, ma da Dio stesso. Ecco cosa penso di te, Ipazia. Sei una creatura gonfia di orgoglio e alterigia. Olimpio si intromette con la sua voce cavernosa. Perdonami, vescovo, ma Ipazia proprio in questi giorni sta realizzando un oggetto scientifico, frutto di studi, di calcoli, di osservazioni astronomiche, un astrolabio. Quest'apparecchio servirà a determinare l'altezza degli astri sull'orizzonte. Se riuscirà a costruirlo con grande precisione, tutte le navi, ad esempio, se ne serviranno per una navigazione più precisa e tante vite umane potranno salvarsi. Oggi come oggi, proprio per questo motivo, una nave su cinque non raggiunge a destinazione. Vescovo, che importanza può avere se questo strumento verrà costruito da una donna? L'importante è che lo si realizzi per il bene di tutti gli esseri umani. Gli occhi miti del filosofo sacerdote brillano di entusiasmo. Ipazia attende che Teofilo risponda a Olimpio, ma il vescovo gli lancia solo uno sguardo furibondo. E allora la giovane scienziata riprende: Il ruolo della donna non è stato scritto da Dio, ma da uomini come te, patriarca. La donna si è quasi sempre vista negare l'accesso al sapere e alle scienze, alle scuole, alle accademie, alle biblioteche, ai centri studi. Tu sai perfettamente che chi detiene la conoscenza detiene un potere. Tu hai paura della mia scienza, di quello che io ho imparato e di quello che imparerò, perché quello che io sto scoprendo può mettere in pericolo la tua posizione di vescovo e patriarca. Teofilo sfugge gli occhi di Ipazia e si gira verso il prefetto imperiale fissandolo intensamente. Evagrio prende il rotolo che serbava quasi nascosto sotto la toga. Fa per srotolarlo e leggerlo, ma si ferma e ci guarda tutti con noncuranza. Non posso non aggiungere il mio pensiero come rappresentante dell'imperatore. L'impero romano guida il mondo da un millennio, anche senza aver mai promosso la scienza. Allo studio delle stelle ha preferito quello della terra, dei bisogni dell'uomo, dei mezzi di trasporto, delle strade, degli acquedotti, del vivere civile, dello stato di diritto. Ma all'inizio non ha compreso la forza innovatrice del cristianesimo e quella deleteria delle altre religioni. L'imperatore, illuminato dal vescovo di Milano Ambrogio, il 16 giugno ad Aquileia, ha emanato quest'altro decreto e tutte le disposizioni che ora vi leggerò sono state estese anche all'Egitto, annullando i privilegi di cui gode da sempre Alessandria. Il centro studi per adesso rimane aperto assieme alla biblioteca. In poche parole, è proibita l'apostasia del cristianesimo, pena la perdita dei diritti testamentari. È messo al bando ogni sacrificio religioso, pubblico o privato. Sono vietate le cerimonie tradizionali di Stato. Gettando un'occhiata stanca ai tre filosofi sacerdoti. E per ultimo, nessuno si avvicini agli altari sacrificali, cammini all'interno dei templi o veneri immagini forgiate da mani umane. Ipazia cinge le spalle di Teone scrollando il capo, volto incupito dall'amarezza. Olimpio, Elladio e Ammonio sono costernati. Teofilo li fissa sprezzante. Il prefetto si alza, lascia il rotolo sul tavolo di marmo e aggiunge: Lascio 15 guardie sulle scale, in modo che a partire da oggi nessuno possa più entrare nel tempio di Serapis. Poi, fissando i tre filosofi sacerdoti, Ho lasciato l'ordine di accompagnarvi di sopra, giusto il tempo di prelevare i vostri effetti personali. Ammonio, la voce rotta dall'emozione, chiede al prefetto se queste norme verranno attuate in tutti i templi di Alessandria, ma è Teofilo, protendendo le mani, a rispondere: No, signori, non solo in tutti i templi di Alessandria, ma di tutto l'Egitto e presto di tutto l'impero. Con flemma studiata, con un gesto che esprime una demoniaca alleanza, prende sotto braccio il prefetto e si allontana. Una delle guardie, Afranio, l'amico di Shai, mi ha riconosciuto e mi ha lasciato passare, senza fare caso ai due sarcofagi che avevo sistemato sul fondo del carro. Ho lottato per dominare la mia trepidazione. Dopo aver trasportato 5 anfore di resina sulla cima del faro con il montacarichi, e dopo averle scaricate e riportate giù, ho portato le due preziose anfore nel cimitero dei bambini e delle bambine e col cuore in gola le ho trascinate nel labirinto sotterraneo, seppellendole sotto mucchi di ossa. Sono riuscito a vincere la paura, pensando che quello che stavo facendo era una faccenda importante per tutto il genere umano. Un giorno, tra 100, 1000 anni, ci sarà chi, scavando in quel labirinto, Troverà le anfore con dentro la testimonianza dei traguardi raggiunti da quei grandi scienziati del passato: Democrito, Euclide, Pitagora, Archimede, Aristarco, Teone e Ipazia. Quando è già passata la dodicesima ora e il sole è ormai tramontato, dopo aver riportato il carro a Zev, sono tornato a casa di Pazia. Ma appena mi incammino lungo Via del Sole, scorgo un gruppo di persone con delle fiaccole accese in piedi nello spiazzo erboso davanti alla casa di Teone. Corro, lo raggiungo, mi tranquillizzo. È gente pacifica, stanno parlando con lo scienziato. La notizia dell'ultimo editto dell'imperatore ha fatto il giro della città. La faccia paffuta di Teone è cupa. La schiena sembra più ricurva che mai. Quello che è accaduto, figlioli, è l'estensione delle proibizioni anche all'Egitto. Proibizione di praticare la nostra religione nei nostri templi, ovvero in pubblico. È un fatto gravissimo, ma c'eravamo preparati, era nell'aria un provvedimento del genere. Teone mi scorge, mi faccio largo tra la folla, mi avvicino a lui, mi chiede di entrare in casa e chiamare i filosofi sacerdoti che stanno parlando con la figlia. Con un cenno, Epicrate mi indica che posso trovarli nello studio biblioteca. Ipazia solleva gli occhi su di me, mi lancia uno sguardo significativo e il mio sorriso placa la sua ansia. Seduti accanto a lei, Olimpio, Eladio e Ammonio, con segni di sofferenza negli occhi. Riferisco loro la richiesta di Teone e Ammonio a intervenire con voce stridente e con un gesto delle mani tenta di spegnere le proteste della giovane. No, Ipazia, non se ne parla, tu e Teone non dovete farvi invischiare in questa storia. Ma non capisci? Prima o poi troveranno qualche pretesto per chiudere anche la biblioteca. E allora tanto vale aprire subito. Qui a casa nostra un piccolo centro studi, ci basta buttar giù qualche parete, rinunciare a un po' di giardino, a un triclinio, così continueremo a lavorare. E se poi, mentre noi studiamo, voi celebrate anche qualche cerimonia religiosa, nessuno ci dirà niente. E protende le sue piccole mani vibranti di fede. Eladio scuote energicamente il capo. Non lo permetteremo mai. Tu non devi correre pericoli per la religione, non devi offrire il benché minimo pretesto a Teofilo e al prefetto per far chiudere la biblioteca e il centro studi del Serapeo. Occhi ardenti, voce accorata, Eladio continua, butta giù tutte le pareti che vuoi. Ma lascia stare, Serapis. Quella gente non aspetta altro per metterti a tacere. E la inchioda con uno sguardo implacabile finché lei non allenta l'ostinazione che porta dipinta sul volto. Nel corso dei millenni l'umanità ha creduto in tantissimi dei, ma nessun dio è riuscito a liberare l'uomo. Perché questa creatura era poco più che un pupazzo, uno schiavo? Oggi una scienziata come te può insegnargli l'uso della ragione, se allora noi sacerdoti saremo capaci di far penetrare nella mente di questa nuova creatura un raggio di luce divina, oh, allora sì che la religione avrà un senso. È il volto da fanciullo di Olimpio che si rivolge a me. No, Shalim, riferisci a Teone che non possiamo parlare alla gente dinanzi a casa tua. Parleremo domani a tutti gli elleni di Alessandria al Teatro Grande. Siamo riusciti a ottenere l'autorizzazione dal prefetto con la promessa di adoperarci per prevenire disordini. I banditori stanno già facendo il giro della città per annunciarlo. Si alza. Gli occhi miti cercano di tranquillizzarmi. Mentre la folla comincia a disperdersi, Teone s'appoggia al mio braccio, respirando a fatica. Lo accompagno nello studio biblioteca. È pallido. Faccio sedere. Ipazia scompare e poco dopo torna con una tazza, fa bere il contenuto al padre, gli accarezza la fronte. Perdonatemi, il mio cuore non è al meglio e scuote con fatica il capo. Quello che sta accadendo potrebbe mettere in serio pericolo il futuro del nostro sogno e scrolla ancora la testa, volto incupito, sguardo triste. 700 anni di indagini, di studio, abbiamo avuto faraoni, principi, re, imperatori che hanno aiutato noi studiosi affinché indagassimo sui misteri della natura. Altri ci hanno solamente lasciato fare. Qui ad Alessandria sono confluite le menti più geniali di filosofi e scienziati che abbia mai avuto il genere umano. E l'ultimo rappresentante, credo proprio che sia questa creatura che mi sta stringendo la mano, mia figlia Ipazia. E proprio quando una donna ha raccolto la sfida lanciata da coloro che l'hanno preceduta, compreso il sottoscritto, proprio quando lei ha cominciato un programma globale, innovativo di insegnamento e di ricerca, proprio mentre lei sta accingendosi a mutare il corso della scienza, perché lei ha capito che occorre passare alla scienza sperimentale per poter provare tutto ciò che abbiamo analizzato in teoria, proprio ora. Le forze conservatrici del mondo si stanno coalizzando per bloccare tutto questo. Solleva la schiena ricurva, alza il capo e cerca il volto della figlia che ha seguito le sue parole con lo sguardo perso oltre una finestrella da cui entrano folate d'aria improvvisa, aria che scuote i rotoli nelle nicchie. Padre, resta solo una cosa da fare, continuare con tenacia e determinazione. Se le tenebre stessero per calare solo su Alessandria, potremmo fuggire, rifugiarci in un altro paese, ma così non è. E allora restiamo qui e continuiamo, come abbiamo fatto finora, senza perderci d'animo. Inoltre abbiamo un gruppo di allievi veramente bravi e tanti amici che ci stimano e che ci aiuteranno. Con una mano gli accarezza il cranio calvo, e poi c'è il mio sogno, che è quello di Platone. Avviare il principe tramite la filosofia a ben pensare per ben governare. Andrò a parlare con l'imperatore, poiché ogni discorso, qualora manchino le opere, mi appare vano e vuoto. Ci abbraccia tutti con quegli occhi tesi da un immenso impeto d'amore. E poi rialza la testa in modo fiero, sguardo che scivola verso la finestra, oltre il vento, oltre il cielo, ammantato di foschia lunare.